finalmente. Nel terror mi ascolto, vede ceffi di birra in rivolta. La pila, la colonna. A piede della Madonna mi scrisse mia sorella.